L'azienda, dopo il Big Bang dell'acquisizione americana, si era praticamente divisa in due macro comparti, che avevano lo stesso management interno, le stesse direttive, ma che sembravano due oggetti separati e con usi e costumi completamente diversi. Due universi paralleli non comunicanti, eppure retti dalle stesse divinità. C'è di sicuro un mistero insondabile annidato in questa evidenza. Nessuno dall'esterno è riuscito a intervenire nella sostanza degli eventi. Una santa alleanza autarchica ha protetto il fortino dagli attacchi degli infedeli stranieri, rendendolo impenetrabile. Io lavoro al Building 2, un reparto di catene di assemblaggio modello. Possiamo vantare standard di ottimizzazione delle tempistiche tanto eccellenti e avanzate quanto rigorose e asfissianti. Abbiamo di che vantarcene, e non è ironia. Lo credo davvero. La fase prototipale alla quale con minimo apporto presi parte fu estenuante. Erano gli anni luminosi della New Wave degli ingegnerini novelli. Ogni problematica fu analizzata e risolta. Sto parlando del mio reparto, quello che io consideravo davvero il mio reparto, dove ho lavorato prima come tecnico al controllo qualità e poi come slave, serviceman, addetto al rifornimento linea. È un campo di lavoro perfettamente pianificato, ordine nella fase di assemblaggio e nei flussi di materiale, competitività a tutti i livelli, altissime performance, nessuna pietà e nessun trucco per fregare la dirigenza e i diretti superiori. In questo reparto tutti lavorano sodo. Solo i carrellisti, seppur efficienti, hanno qualche limitato tempo di inattività e possono urinare senza chiedere la sostituzione. Ma è impossibile farla franca, tirare a sera senza impegnarsi e lavorare, bighellonare in anfratti dimenticati. Non è questione di severità dei responsabili, è stato creato un meccanismo perfetto. Ogni persona è tempo-lavoro. La catena di assemblaggio non si ferma mai. Nella pausa pisciata, l'operatore di linea è sostituito dal facilitatore. Tutto il resto è Building 1, medioevo, incertezza. Lavoro a fisarmonica, momenti di isterica, iperattività male organizzata e momenti di stanca risacca. Si assemblano condizionatori d'aria per macchine agricole, mezzi in movimento terra e per una specie di monovolume russo. Sono lande misteriose e infide, popolate da donne con le dita dalle mani grosse, come quelle di un uomo, giganti scorbutici, nani psicolabili, territori dove quasi mai ho osato avventurarmi. A volte ho rischiato pesante, con rapide incursioni nei mesi estivi. Saettavo veloce, come un furetto ad approvvigionarmi di bottiglie da mezzo litro di acqua fresca. Cercavo di essere mimetizzato e silenzioso. Tenevo un profilo defilato. Aspiravo all'invisibilità, cercando di evitare ogni contatto con gli indigeni. In fondo, forse, gente innocua e ridanciana. Anche in questo reparto gli uomini sono ridotti a poche comparse. Vige un curioso sistema camorristico su modello matriarcale, tutto intriso di una disgustosa sorellanza. Tempo fa ci fu un calo di produzione nel mio reparto e fummo spalmati su altre linee produttive. Ero terrorizzato. Sapevo di avere nemici dappertutto. Non ero mai stato molto popolare, ma nella mia solita trincea sapevo come muovermi e neutralizzare i pericoli. MP3, eroina, scatti d'ira, battute a sfondo sessuale, improvvisi cambi d'umore. Ebbi dunque la sventura di tornare in quei luoghi dimenticati dal tempo e dalla tecnologia industriale contemporanea che avevo abitato nei primi anni 90. Rispetto ai tempi del vecchio responsabile Ferri, nessun miglioramento, anzi. Allora i capi avevano competenze tecniche superiori alla media e un'autorevolezza che incuteva timore, ma che ti metteva al riparo da dubbi e paure. Il loro posto è stato preso da operai promossi sul campo per imprecisati meriti. Meglio sarebbe stato se i capi reparto fossero stati calati dall'alto, alieni e inconsapevoli, ma stimolati ad analizzare i fatti per come gli si fossero presentati, senza inquinamenti, amicizie, parentele o complicità affondate nel passato remoto. Avrei preferito asettici tagliatori di teste, armati di sola logica, feroci matematici, per nulla inclini alla pietà e alla mediazione. Qua oggi si contrattano i termini della detenzione. Se uno è furbo, riesce in parte a gestire il proprio destino, a lavorare poche ore svolgendo mansioni agiate. Si cercano affiliazioni, ripari, scudi, protezioni. In questo regno non ci sono veri e propri diritti e doveri. Si chiede tutto in termini di concessione, favore personale. Si va a conferire con la caporeparto sottovoce, mentre attorno gli altri detenuti cercano di leggere le labbra come in confessionale. Si espongono problemi, si chiedono ferie, permessi, piccoli privilegi, cambi di linea per incompatibilità di carattere con le colleghe. Sembra amicizia, ma il termine, credetemi, non è appropriato. È una melma collosa che ti si attacca sotto le suole delle scarpe antinfortunistiche e ti immobilizza come un incubo. È come se non esistesse più un conflitto aperto tra operai semplici e responsabili di primo livello, i capò, anzi la capò, perché anche al Building 1 hanno capito che le femmine sono più spregiudicate e disinvolte nella gestione del piccolo potere. Valle. Anche qui, come nel mio reparto, il conflitto si esprime verso il basso. Si individuano soggetti alieni, facchini usati come operai interinali, gente come me venuta da altri reparti che non dà confidenza e può accendersi una piccola guerriglia di delazione e spionaggio. Ti senti gli occhi delle indigene addosso, pupille dilatate, e devi stare attento quando parli. Potresti finire bruciato dentro la tua stessa vettura nei pressi dell'argine di un canale. A volte la caporeparto richiama un certo decoro disciplinare. Ma è una posa, porta risultati transitori. Il lavoro da queste parti naviga su risacche disomogenee e fuori controllo. L'esperienza del mio reparto non ha germinato, ha trovato un vicolo cieco. Nessuna standardizzazione è stata applicata, nessun controllo. Nessuno si è preso l'onere di calcolare le tempistiche di lavoro del Building 1. L'oggettività del tempo lavoro è relegata a un limbo vago e baluginante. Nessun responsabile ha mai indagato sulle escursioni di produttività a parità di condizioni. È incredibile. Eppure il piccolo Giraldi, che tiene le fila del Gemba Tour ormai da qualche anno e ha frequentato un master alla Bocconi, non ha mai fatto delle comparazioni. Non ha mai riscontrato crimini né svolto indagini. Evidentemente concentra le sue forze intellettuali su altri aspetti forse più importanti e che mi sfuggono. L'operaia X nella mattinata assemblò 30 gruppi condizionatori del modello Same Rainbow in 4 ore di lavoro. L'operaia Y nel pomeriggio ne fece uscire 17. Ora voi mi direte che non dobbiamo essere punitivi con l'operaia Y, dobbiamo rispettare i suoi limiti. E visto che gli anni 70 sono stati archiviati da tempo, nemmeno possiamo prendere in un angolo l'operaia X per minacciarla e convincerla ad abbassare i ritmi. Sta di fatto che il caso e l'illogicità regnavano. E io, quando non capisco, soffro. Il mio cervello continua a lavorare, anche se le mie basse competenze mi consentirebbero distacco e apatia. Vedo tutto, processo tutto. Le linee rimanevano senza materiale. Gli operai bighellonavano per minuti interminabili, lasciando la postazione per dirigersi verso apparecchi radiofonici e ventilatori, fermando il lavoro, intavolando discussioni indignate con altri operai o con superiori che, incredibilmente, davano corda e rispondevano a polemiche pretestuose. Sarebbe semplice e indolore bonificare questo immondo reparto. Nessun intervento traumatico sarebbe necessario. Basterebbe implementare un piano di addestramento di tutte le operaie, mescolando le donne del Building 1 a quelle del Building 2, così da generare una sana circolazione e un ricambio che darebbe ossigeno, liberando l'aria da muffe e sedimenti di potere e corruzione. Possibile che al piccolo ingegnerino Giraldi, ai corsi della Bocconi, questi particolari non sono mai stati spiegati? Perché non si libera dalle catene dei vecchi imbroglioni di sempre? È ingannato o fa parte del complotto, del maleficio che tiene in scacco il sistema? Mi capitò di deambulare da un settore all'altro senza portare nulla, se non le mie gambe. Quando un serviceman si muove senza fare transazione di materiale, l'azienda lavora in perdita e non è sano. Questa ovvia considerazione mi faceva stare sulle spine. Mi trovai a disagio. Io devo sempre essere nel giusto, fare il mio dovere e qualcosa di più. Devo essere altamente produttivo, zampettare senza pace, portare il materiale alle operatrici con ordine, senza che queste possano avere di che lamentarsi, riporre i pezzi nel modo migliore, così che le donne possano prenderli secondo le migliori regole ergonomiche, seguendo gli standard di lavoro. Nel reparto forestieri, gli altri operai si sentirono in dovere di comunicare con me. Volevano parlare di telefonia mobile e calcio. Qualcuno mi chiese i consumi della mia auto, oppure cercarono di attaccare bottone commentando una vittoria del motociclista Valentino Rossi. Volevano che mi togliessi le cuffiette dell'MP3 senza dirmelo apertamente, come se questo atto di chiusura risultasse offensivo. Terribile. mi avvicinò una signora secca secca che faceva un lavoro di precisione sempre china su delle mostrine comando. Mi chiese: «Tu che sai tutto, come si chiamava la cantante negra alta col foulard?» Risposi Grace Jones e la signora mi ringraziò. Anche la caporeparto cercò un gelatinoso rapporto umano con me. Sbagliato. I capi devono stare da una parte e gli operai da un'altra, senza contaminazioni né zone grigie. I capi devono dare ordini sensati. I sottoposti devono proporre logiche proposte volte al miglioramento generale del lavoro, senza ambire a privilegi immeritati. Ero schifato. Non diedi confidenza. Mi limitavo ad aumentare i ritmi della mia attività. Anche nei momenti vuoti non mi fermavo. Tagliavo cartoni, facevo pulizia. Non partecipai a nessun crocchio di scansa fatiche senza vergogna. Non capisco come si possa non lavorare senza sentirsi a disagio. Non mi piaceva quando la capa parlottava con le operaie o andava a fumare. Non mi fidavo. Per quanto ne sapevo, avrebbe potuto complottare alle mie spalle per danneggiare lo straniero del Building 2. Ora voi mi direte: che male c'è nell'avere tempi di produzione meno pressanti? Nel coltivare rapporti umani accettabili? Il fatto è, vi ricordo, che questa è una unità di produzione, non un villaggio turistico. La libertà non è lavorare poco. La libertà è non avere alcuna opinione sul giovane pilota di moto Valentino Rossi. Il segreto del buon serviceman è mantenere un ritmo alto e costante, avvantaggiarsi nel lavoro per prevenire picchi di produzione che possono essere in agguato, mai prendere troppa confidenza, mai sottovalutare una linea di lavorazione che può sembrare sonnacchiosa per poi impennarsi senza logica. Eppure, pur sapendo la regola, mi stavo rammollendo, mettendo in atto qualche misero trucchetto. Rifornivo a gran velocità le tre linee che mi avevano affidato e ricavavo il tempo per rifugiarmi nei bagni al piano di sopra, quelli con l'aria condizionata. Potevo sedermi fino a 10 minuti, stendere le gambe in alto e chiudere gli occhi. Più i ritmi sono lenti, più il lavoro è agevole, più sono oppresso dai sensi di colpa per i cattivi pensieri che mi insidiano il cervello e mi fanno sentire dalla parte del torto. Se l'ambiente è soft, il mio malumore pare rivelarsi ingiustificato. Lo facevano apposta. Il mio gioco era scoperto almeno quanto il loro. Addirittura mi affiancarono un'operaia ad aiutarmi e quasi ci litigavamo il lavoro. Non potevo più lamentarmi per i ritmi bestiali. Ogni motivo di rancore finiva in fuorigioco, neutralizzato dalla loro comprensione e umanità. Al Building 1 capirono come gettarmi nel dubbio e nell'imbarazzo. A inizio giornata la caporeparto salutava sempre. Io cercavo di evitarla percorrendo tracciati larghi per arrivare sul posto di lavoro, ma finiva che me la trovavo di fronte. Mi chiedeva come era andato il fine settimana. Lanciava frasi che alludevano al fatto che nel suo reparto di sicuro stavo meglio. Pretendeva che lo ammettessi apertamente, che in qualche modo le rendessi onore. Non ottenne alcun risultato. Conosco queste tattiche. Non avrei mai fatto parte del clan del Building 1. Il mio feedback era arido. La liquidavo con poche frasi mozzate e lei si allontanava, pensierosa, verso l'ufficio. Non sapeva come prendermi, come avvicinarmi, come controllarmi, come colpirmi. Oltretutto le mie alte performance su queste linee erano inutili. Quando venne il momento di rispedirmi da dove venivo, si sentì di certo sollevata. Con l'operaio che guidava il carrello, un buon diavolo, mi lasciai andare a osservazioni critiche sull'organizzazione del reparto. Dissi che erano dei cantinari. Lui mi disse che la confusione era positiva e che quando lavorava al Building 2 aveva avuto un mezzo esaurimento nervoso. Lui di sicuro non fece la spia, ma la caporeparto aveva di certo colto le ondate di dissenso, la negatività che sprigionavo e aveva preso a ignorarmi. Col mio atteggiamento potevo finire male, anche al reparto stampaggio, dove in alcuni periodi dell'anno fanno i turni anche di notte. Il mio collega mi disse che pensavo troppo, dovevo mettermi tranquillo e guardare come si muoveva lui in reparto. Avessi imparato a usare il mezzo che guidava, avremmo potuto darci il cambio, gestirci le ferie e i permessi secondo i nostri bisogni, senza mettere in mezzo operai interinali. Disse che la capa e io ci eravamo presi male subito, e non certo per colpa sua, che era una buona donna. Anzi, lei nei miei confronti era ben disposta. Era stata felice di avermi in reparto. Era addolorata per il mio atteggiamento. Non pretendeva gli stessi ritmi da tutte le operaie. Ne conosceva limiti e meriti e li teneva in conto. Non conducevo forse un'esistenza più umana sul suo territorio? Mi aveva in qualche modo danneggiato? Sovraccaricato di lavoro? Mi aveva mai rimproverato? Negato permessi? Perché mi attorcigliavo il cervello in critiche al sistema produttivo del reparto? Perché reclamavo ancora più efficienza? Tanto più che girava voce che a breve ci sarebbe stata una pesante riorganizzazione del lavoro simile a quella del Building 2. Per noi operai sarebbe finita lacrime e sangue, pausa pisciata regolamentata e nessuna sosta selvaggia. Sarebbero finiti anche i privilegi per gli operai del magazzino. La morsa si sarebbe stretta davvero questa volta. Questione di mesi. Mi disse che noi del Building 2 eravamo tutti schizzati e masochisti. La parola esatta fu coglioni. E stavamo portando il virus della coglioneria in giro per la fabbrica. Poteva essere dunque quella la soluzione? Lasciare il Building 2? Imparare a guidare il mezzo elettrico soprannominato Vespa e iniziare un'attività più dignitosa e rispettata? Avrei parcheggiato il cavallino nei pressi della macchinetta del caffè a orari non canonici, scambiato chiacchiere virili con altri cavalieri, risalendo così nella catena evolutiva dell'operaio massa? Avrei visto tutto con occhi diversi. Avrei riconosciuto un territorio meno infido. Avrei dato ossigeno al cervello, sfrecciando lungo i corridoi che delimitavano le isole produttive. Non lo saprò mai. Rifiutai l'offerta. Il mio collega scosse la testa deluso. Lo guardai mentre stoccava un cassone di rete pieno di compressori in posizione C, la più impervia. Mi vergognai. Riguadagnai il mio carretto a testa bassa. Andai veloce come non ero mai andato. Alimentai tre linee in modo furibondo, ma non ce n'era alcun bisogno. Forse io in fondo ero ben voluto in reparto, almeno tollerato. Quelle creature cercavano la mia confidenza, una via per il contatto umano. Tutti si davano da fare per farmi sentire a mio agio. Io ero una diga piena di cattivi presagi. Quello spicco di azienda che produceva condizionatori per enormi mostri su quattro ruote era davvero un pezzo di paradiso a misura d'uomo. La caporeparto ci riconosceva come esseri umani e non come unità spazio-temporali. Nessun complotto aveva ordito le mie spalle, solo cercava una zona molle nelle mie difese per entrare nel mio intimo, ma senza piani malvagi. Ero un piccolo animale selvatico, avrebbe voluto solo capirmi meglio, di certo aveva preso la mia spigolosità come la difesa di una creatura fragile e confusa dal nuovo contesto. Ecco le scempiaggini che state immaginando. Se voi aveste visto il film di quei giorni da ignari spettatori, non avreste colto l'inquinamento del Building 1. Vidi la Ghedini parlare con la caporeparto del Building 1 sul limitare della zona stampaggio con vista sull'area produzione. Mi stupì l'evidenza della loro confidenza e sintonia. Nel mio cervello avrebbero dovuto essere in guerra. La Ghedini avrebbe dovuto biasimare lo svacco che passava davanti ai loro occhi. Invece no. Ci stavano indicando, ma solo per scambiarsi i nostri nomi da inserire nelle diverse linee, come fossimo figurine di calciatori. Se in quel preciso momento fossi intervenuto, se mi fossi frapposto fisicamente fra le due donne, se avessi tentato di spiegare alla Ghedini le storture a cui avevo assistito, se avessi svelato le trame, la linea della corruzione che porta a una costellazione di figure losche così facili da identificare, non so. Forse quel giorno sarebbe cambiato qualcosa, forse tutto si sarebbe chiarito. Loro avrebbero potuto fornire una versione dei fatti logica e accettabile. Avrebbero forse compreso il mio stato di malessere. Forse la brutta piega che la mia vita aziendale aveva preso poteva essere ancora corretta. Forse. Dopo qualche mese seppi che in questi giorni stavano tentando di allontanarmi per sempre dal Building 1. Una facilitatrice si era lamentata dei miei modi poco urbani e di una certa sbadataggine durante i cambi modello. La Ghedini si era mossa per tentare una difficile ricollocazione in azienda. Avevano pensato che potessi affiancare il guidatore di Vespa, che non aveva ancora un sostituto. Curiosa circostanza, dal momento che non poteva fare né ferie né mutua. Quel lavoro era piuttosto impegnativo e nessun carrellista aveva accettato l'incarico. In realtà avrei dovuto ringraziare la caporeparto del Building 1, inginocchiarmi e renderle omaggio per aver accettato un reietto come me. Capite quanto sia difficile orientarsi, dirigere correttamente il proprio odio? Lo so, vorreste chiedermi perché non imparai mai a usare quello strano oggetto ruotato che si guida da ritti, in piedi, e con lo sguardo fisso all'orizzonte, come fosse un monopattino.